Addio ad Enzo Berzot, tecnico dell'Italia dell'82. Riforma Gelmini verso il voto finale, gli studenti preparano nuovi blitz. Dati Istat, disoccupati all'8,7% ad ottobre, il massimo dal 2004. Voto condizionato alle regionali in Calabria, 12 arresti. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Queste dunque le notizie in primo piano, a partire dalla morte di Enzo Berzot a Milano, nella sua casa in zona Vigentina. Se ne va un pezzo della storia del calcio italiano, ma come diceva anche nel collegamento di mezzogiorno il nostro Dario Ceccarelli, che è qui accanto a me, se ne va un pezzo dell'Italia. Dario. Sì, proprio così, Anna Rita, è un pezzo dell'Italia che se ne va e ci lascia tutti un po' più tristi. Era chiamato il Vecchio perché così era friulano e poi perché era molto rappresentativo. E il commissario tecnico del trionfo in Spagna nell'82, quello più bello, aveva 83 anni e ci lascia in eredità una straordinaria avventura che è maturata proprio in quell'estate che tutti ricordano un po' come un film, perché è rimasta sempre come una colonna sonora, con quei colori, lo stadio di Madrid, c'era Pertini con la pipa, Zoff che il giocare a scopa assieme, insomma quell'estate indimenticabile. E lui li chiamava tutti i figli suoi, Gentile, Bergomi, Tardelli, Graziani, Altobelli, Antonioni. Ecco, sentiamo proprio Antonioni, uno dei suoi ragazzi, intervistato da Adriana Fracchia. È un uomo, almeno nei miei confronti, eccezionale, perché mi ha fatto giocare 10 anni in nazionale, quindi a volte anche contro un po' le scelte che facevano altre persone, tra cui la stampa. Comunque, un uomo a cui sono particolarmente legato, ma non solo per questo motivo, Com'era come mister? È un mister, diciamo, moderno, perché se noi consideriamo che si giocava con due punte e due mezze punte, perché prima si diceva dei difensivisti, altri, invece assolutamente, perché la squadra che schierava in campo era sempre offensiva, molto offensiva. Quindi, diciamo, le caratteristiche erano queste. Di quel campionato dell'82, quel campionato del mondo mitico che tutti ricordiamo. Credo un merito particolare vada a lui, per la coesione, per il gruppo che aveva creato. A volte anche con i giocatori vari non si vince, invece lui è riuscito a plasmare questo gruppo nel modo migliore, proprio per le caratteristiche che ho detto prima. Friulano d'origine, Berzot giocò da mediano nell'Inter e soprattutto nel Torino. In nazionale comincia nel 69 alla guida dell'Under 23 fino al 75 e poi il trampolino di lancio per la nazionale maggiore. Ricordiamo il quarto posto ad Argentina 78 e poi il mondiale, quello con Rossi, Cabrini, di cui abbiamo sentito poco fa. Suo è il record di presenze sulla panchina azzurra, 104. Grande tecnico Berzot, ma anche un uomo grande nel senso di umanità e capacità di gestire un gruppo. Negli ultimi anni Berzot si era un po' allontanato dal calcio, forse Calciopoli gli aveva spento l'entusiasmo, però sapeva ancora indignarsi, come racconta al nostro Gigi Garanzini in un'intervista che gli fece per il suo compleanno. L'inno nazionale è una cosa sacra, non si fischia mai, certo. Si fischia dopo, c'è tanto tempo per fischiare. Senti, come hai fatto a conservare negli anni questa tua capacità di indignarti? Ti sei indignato adesso ricordando questo episodio, cioè lo si è visto, sai, proprio dalla tua espressione. Ti ho sempre detto che le cose positive sono come una dieta che ti accarezza il volto, ma le cose negative sono ferite. Anche se non sono ferite vere fisiche, ma sono anche ferite morali, sì. Non le dimenticherò mai quelle. Quelle ti segnano la vita, qualsiasi tipo di ferita, anche morale. Anche un'offesa è una ferita che ti rimane lì. Senti Enzo, di tornare allo stadio non se ne parla, mi sembra. Ma per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio. Faccio fatica a stare in piedi, puoi immaginare. No, ma non lo dicevo da un punto di vista fisico. Sono in un periodo in cui faccio fatica a ricordare. E in ogni anno sparisce un anno dei miei ricordi. Adesso sono arrivato, non so se al 72, l'anno prossimo parte il 63, il 74, ogni anno così, non so dopo quale sarà. Ecco, ma noi non ci dimenticheremo di Berzot, un grande uomo di sport, e come dicevamo prima, credo che non è abusato dire che con lui se ne va un pezzo di quell'Italia che ha saputo farsi apprezzare anche nel mondo. Ricordiamo che dopo il GR delle 14 Gigi Garanzini dedicherà a Berzot la puntata di A Tempo di Sport. Grazie a Dario Ceccarelli, dunque alle 14 a Tempo di Sport con Gigi Garanzini, interamente dedicato alla grande figura dell'indimenticato Enzo Bearzot. L'università e le proteste degli studenti adesso, al Senato prosegue stamani l'esame del DDL, il fronte politico con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Palazzo Madama, dunque, alle prese con l'ultimo passaggio parlamentare della riforma, gli articoli da approvare e i relativi emendamenti sono ancora centinaia, obiettivo del governo chiudere entro domani mattina. Parte della maggioranza punterebbe tuttavia ad accelerare al massimo i lavori per approvare il testo questa sera ed evitare così ogni occasione di polemica domani con gli studenti. Cercate di votare velocemente, ha detto lo stesso presidente Schifani ai senatori, perché ci sono ancora molte votazioni. L'opposizione dal canto suo si sta tenendo fedelmente al regolamento, chiedendo di fatto il voto elettronico per ogni emendamento, cosa che implica comunque una piccola perdita di tempo. Il ministro dell'istruzione Gelmini difende intanto il provvedimento e agli studenti rivolge l'appello perché le contestazioni siano pacifiche. Il ministro spiega poi di comprendere il problema del precariato e della crisi, ma per risolverli invita a una proposta politica e a non cavalcare le paure. Di riforma iniqua parla tuttavia il centrosinistra, mentre dal PDL Gasparri ricordano non mai detto di arrestare preventivamente tutti quelli che vogliono manifestare. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, e poi ci sono gli studenti che si stanno organizzando, sempre in diretta. Andrea Viali, Andrea. Sì, Annarita, saranno oltre 2.000 gli uomini delle forze dell'ordine che domani presidieranno il centro di Roma, la cosiddetta zona rossa, nella quale sarà totalmente vietato l'ingresso, sarà probabilmente ridotta rispetto a martedì scorso, ma anche tutta l'area circostante verrà presidiata in modo meno rigido da polizia, carabinieri e guardia di finanza. I rappresentanti degli studenti assicurano che le proteste di domani saranno pacifiche, ma si sono rifiutati di concordare con la questura il percorso dei due cortei in programma. Uno partirà dalla Sapienza, uno da Piramide. Potrebbero esserci poi blocchi del traffico e azioni di proteste a sorpresa anche in altre zone della città da parte di piccoli gruppi di studenti, i cosiddetti flash mob, uno dei quali è stato preannunciato per oggi pomeriggio davanti a Montecitorio per prendere in giro il governo e il clima di tensione che vuole provare a creare, hanno fatto sapere gli studenti. La Digos di Roma intanto continua le indagini sui disordini, sugli scontri di martedì scorso. Secondo un primo bilancio sono 60 i giovani identificati e denunciati per manifestazione non preavvisata, altre 8 persone invece per lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. Per ora è tutto, Annarita. Grazie Andrea. Arresti preventivi per evitare violenza in piazza è una soluzione giusta? Questa è la domanda oggi di Bianco o Nero. Non è la giusta soluzione per il 54% dei nostri ascoltatori, lo è invece per il 46%. E stamattina nella trasmissione proprio di Alessandro Milan è stato intervistato Francesco Russo del Consap Roma, il sindacato dei poliziotti. Sentiamo che cosa ha detto in Bianco o Nero Francesco Russo parlando proprio dei manifestanti. Per quanto ci riguarda abbiamo nei loro riguardi un rispetto altissimo, finché i toni rimangono bassi e finché il rispetto rimane reciproco. Per questo io ci tengo. Poi per quanto riguarda gli arresti preventivi piuttosto che il DASPO, io chiederei ai governanti di fare i governanti. Per queste cose c'è il responsabile dell'ordine di sicurezza pubblica, che è il signor questore di Roma, nella fattispecie, o il capo della polizia. E per capire le intenzioni dei manifestanti, la nostra Paola Anania ha intervistato Giorgio Sestili del collettivo Atenei in rivolta. Niente assalto alla zona rossa conferma, ma iniziative a sorpresa. Abbiamo già dichiarato che non ci avvicineremo alla zona rossa, ma semplicemente perché in questo momento ci sentiamo più intelligenti di un governo che sta gettando benzina sul fuoco. Il governo è convinto che domani si proporrà una giornata di scontri e di violenza. Noi vogliamo dimostrare che il movimento studentesco in questi anni ha avuto sempre molteplici forme di protesta, dalle più pacifiche a quelle più radicali, e domani ancora una volta stupiremo, insomma. Stupirete come? Nessun assalto ai palazzi tra virgolette del potere? No, nessun assalto, ci saranno cortei diffusi nella città, creeremo blocchi, bloccheremo il traffico cittadino. E poi, insomma, tutto il resto si vedrà. Significa che c'è qualcosa in serbo che per ora non vuoi svelare? Significa che ci saranno altre assemblee oggi e non comunicheremo in ogni caso tutto quello che faremo domani. Sarà anche un corteo per certi versi imprevedibile e a sorpresa. Tra i motivi della protesta, la paura per il futuro da parte dei giovani e i dati Istat sulla disoccupazione sembrano confermare questi timori. Disoccupazione record a ottobre. Siamo all'8,7%, dice l'Istat, dall'8,4% di settembre. Ed è stato toccato il massimo dal gennaio 2004. Un giovane su quattro, inoltre, è disoccupato. Nel terzo trimestre l'Istat denuncia 57.000 posti di lavoro in meno rispetto al secondo trimestre dell'anno, mentre il tasso di occupazione scende al 56,7%. Sentiamo Mario Albissini, responsabile dell'analisi e diffusione dati dell'indagine sulle forze lavoro. Occupati sono in buona sostanza ex occupati, sia giovani alla ricerca della prima occupazione, tant'è che il tasso di disoccupazione giovanile ancora è su livelli molto elevati, 24,7% il tasso di disoccupazione, e ci sono delle punte ancora più forti nel sud. La fotografia è un mercato del lavoro che stenta a ripartire, degli episodi di crescita, ad esempio nell'occupazione a orario ridotto, nel part-time, si scontrano contro perdite ancora molto elevate nel settore industriale e soprattutto nella occupazione a tempo indeterminato. Teresa Trillò da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 'Ndrangheta e voto di scambio, 12 arresti in Calabria, i dettagli dell'operazione che Radio 24 è in grado di anticipare. Io e i miei amici diamo il massimo, però poi desideriamo una certa attenzione. Le intercettazioni sono chiare, proprio come le immagini della telecamera che inquadrano l'ingresso del futuro consigliere regionale nella casa di Gambazza Giuseppe Pelle, il capo della cosca della fascia ionica. È il 27 febbraio quando l'accordo tra la 'Ndrangheta e uno dei suoi politici viene ratificato. Da parte nostra, dottore, ci sarà il massimo impegno, assicura il boss. Dall'altra, il candidato Santi Zappalà fa capire come maggiore sarebbe stato il suo risultato, tanto più, annotano i magistrati, avrebbe potuto sdebitarsi, e il modo viene stabilito subito. Innanzitutto lavoro per gli amici, esplicita un imprenditore edile, poi che il fratello del capoclan recluso a Rebibbia venga più vicino in un carcere della zona, e Zappalà, che già in passato aveva assicurato di avere persone sue nel mondo penitenziario, promette un aiuto, anche se i tempi sono cambiati, fa notare. Certe regole però soprattutto sotto elezioni resistono, e la 'Ndrangheta sa che loro, i politici, hanno bisogno di noi, e questa, registrano le intercettazioni, è una cosa che dobbiamo gestire noi. Così in un vertice a Bovalino i capi mandamento stabiliscono di non disperdere i voti e che al Consiglio regionale dovevano andare 3 della fascia ionica, 3 della piana, con la prospettiva di approdare poi a Roma. In ogni caso l'indicazione è promettere il voto a tutti i candidati. Raffaella Calandra, Radio 24. Sole 24 ore. Si tratta dunque, lo avete sentito, di politici del centrodestra. Che peso allora ha questa operazione sul governo regionale? Lo chiediamo al nostro Filippo Veltri. Filippo. Buongiorno a voi. Il peso bisognerà vederlo nelle prossime ore. Intanto c'è già una richiesta da parte di un deputato del FLI, Angela Napoli, di scioglimento del Consiglio regionale. Proprio dopo l'arresto di Santi Zappalà, e l'indagine di cui avete parlato finora ha offerto uno spaccato fra l'altro di estremo interesse per capire proprio le strategie attuali delle cosche della 'Ndrangheta, di cui la famiglia Pelle è tra le più blasonate, ed ha confermato la loro capacità pervasiva e di influenza nei più svariati settori della pubblica amministrazione. A questo vorrei solo aggiungere che in 8 giorni, cioè a dire da martedì della scorsa settimana ad oggi, sono state effettuate 4 operazioni in tutta la Calabria che hanno svelato come ormai il rapporto con la politica e con il mondo anche degli affari istituzionali in genere è molto ampio. 8 giorni fa è stato fermato l'ex sindaco di Siderno, che aveva appoggiato in realtà il candidato del centro-sinistra alle regionali di marzo. Successivamente a Cosenza è stato arrestato un ex parlamentare dell'Udeur. Poi domenica scorsa addirittura un capitano dei Carabinieri, e ora l'operazione oggi che conferma con l'arresto del consigliere regionale la pervasività delle cosche della 'Ndrangheta. Addio ad Enzo Berzot, l'indimenticabile tecnico dell'Italia dell'82, lo abbiamo ricordato insieme a Giancarlo Antognoni, torneremo a parlarne nel corso dei prossimi GR, e vi ricordo, a tempo di sport con Gigi Garanzini, una puntata speciale dedicata alla scomparsa di Enzo Berzot. Le altre notizie: dati Istat, disoccupati all'8,7% ad ottobre, è il massimo dal 2004, molti sono giovani e gli studenti preparano nuovi blitz contro la riforma universitaria. Voto condizionato alle regionali in Calabria, oggi 12 arresti. E a Napoli, rifiuti ancora per le strade, occupata la Basilica di San Francesco di Paola in piazza Plebiscito. dolce l'amaro di una città. Mi piace partire da napoletana con questa canzone A città e Pollacenella, cantata da Murolo, perché a Napoli c'è il dolce e l'amaro sempre. E dunque puntiamo i riflettori su questa città, sulla città dei contrasti per eccellenza, pronta, lo speriamo, ad accogliere i turisti che dovrebbero arrivare per le festività natalizie, ma ancora sommersa dai rifiuti. Io ringrazio e saluto il nostro ospite Paolo Giacomelli, assessore all'igiene urbana del Comune di Napoli. Buona giornata, assessore. Buona giornata a voi. Assessore, allora, lei oggi ha lanciato un appello, poi parliamo della cronaca del fatto che sia stata occupata la Basilica di San Francesco di Paola, poi ci racconterà che cosa è accaduto. Lei intanto ha lanciato proprio per le festività un allarme. Nel periodo delle feste l'immondizia prodotta è in quantità superiore e quindi se non si individuano già da oggi i siti dove conferire questi rifiuti, 25 e 26 saranno un disastro. Esattamente, questa emergenza, come ormai tutti sanno, è molto diversa da quella di 2 anni fa, nella quale non c'era proprio possibilità di individuare luoghi dove conferire i rifiuti. In questa emergenza invece noi abbiamo sia gli impianti della provincia di Napoli, sia impianti delle altre province che possono prendere rifiuti dei comuni della provincia di Napoli. L'importante è evitare quello che è accaduto nelle ultime festività, le ultime domeniche, che gli impianti rimangono chiusi, la raccolta viene fatta e i mezzi rimangono tutti compattatori pieni di rifiuti. Io le faccio sentire un'intervista perché la nostra collega Laura Bettini ha intervistato Daniele Fortini, che è l'amministratore delegato dell'ASIA, l'azienda dei servizi di igiene ambientale di Napoli. Lui dice che questa crisi non ha delle ragioni tecniche. Assessore, lo sentiamo, poi la commentiamo. È inspiegabile l'emergenza, se non appunto con ragioni che non hanno nulla a che fare con la tecnica e con la base realtà. 2000 tonnellate da terra si tolgono in 3 giorni. Per portarle sempre lì, non in Germania. Ma abbiamo una discarica che è a 32 chilometri dal centro della città, 32 chilometri. Sciaguratamente in provincia di Caserta, e la scelta fatta, quella unica al mondo, cioè di provincializzare la gestione dei rifiuti, sta determinando un braccio di ferro fra la regione, il comune di Napoli, la provincia di Napoli, la provincia di Caserta, per cui queste 2000 tonnellate di rifiuti devono stare a terra. Abbiamo progetti per portare la città di Napoli servita con il sistema di porta a porta della raccolta differenziata al 100%. Il decreto 196, quello che attualmente è in conversione alla Camera, prevede 150 milioni di euro per il sostegno alle raccolte differenziate, sia per la parte impiantistica sia per la parte gestionale. Ecco, io mi auguro che questi soldi non finiscano nuovamente invece a pagare gli stipendi a tutto quel personale che è stato reclutato negli anni passati per fare la raccolta differenziata e che invece si è rivelato assolutamente inefficace come investimento. Assessore Giacomelli, abbiamo sentito le parole di Daniele Fortini, una crisi che non ha ragioni tecniche ma ragioni politiche. Possiamo condividere questa analisi? Direi proprio di sì. È, come diceva Fortini, il caso unico di una regione italiana che ha deciso flussi della gestione del ciclo integrato a livello provinciale, con questa caratteristica che la provincia di Napoli è l'8% del territorio e vi abitano il 50% degli abitanti della regione Campania. Quindi abbiamo una discarica dentro il comune di Napoli, che è la discarica di Chiaiano, dove ogni sera noi smaltiamo intorno a 600 tonnellate, e le altre 600 tonnellate di rifiuto urbano residuo che la città produce, noi troviamo grande difficoltà perché all'interno della provincia di Napoli, chiusa giustamente cava Vitiello, che era la cava prevista nel parco del Vesuvio, dove non si poteva immaginare di avere una nuova discarica, non abbiamo più nella provincia di Napoli dei luoghi dove portare i rifiuti. Questo è un caso unico in Italia, perché tutti gli ascoltatori che si occupano del ciclo integrato dei rifiuti sanno che i flussi del trattamento e dello smaltimento sono decisi a livello regionale. Assessore, dunque polemiche politiche che poi tra l'altro proseguono, perché anche ieri c'è stato un botta e risposta tra il Comune di Napoli e la Regione Campania, anche politicamente ci sono colori diversi e questo sicuramente non aiuta. Per quanto riguarda la città, oggi abbiamo sentito che è stata occupata la Basilica di San Francesco di Paolo in Piazza Plebiscito. Siamo nel periodo delle feste, cioè per il turismo è un disastro. è veramente un disastro. Noi come comune ci stiamo facendo il massimo, i lavoratori, perché poi l'assessore veramente può fare poco, i lavoratori dell'azienda tutte le sere cercano di raccogliere la maggior quantità di rifiuti possibile. Il tema è quello di evitare che questi rifiuti raccolti poi non si sappia dove portarli. L'occupazione di Piazza Plebiscito, di una società, di lavoratori di una società della regione, è un po' riflesso di quello che diceva Fortini. In questa regione negli anni passati si sono messi in moto dei meccanismi che riguardano più tutela del reddito che politiche ambientali e politiche dei rifiuti, costruendo delle società o delle liste o delle indennità di disoccupo di formazione che poi non hanno adesso in momento di crisi la possibilità di lavorare effettivamente il ciclo integrato dei rifiuti. Ma già Napoli ha una TARSU molto alta, noi dobbiamo fare in modo che i lavoratori che in questo momento lavorano in questo settore aumentino la produttività, non possiamo chiedere alla collettività di pagare ancora di più il ciclo integrato dei rifiuti. Assessore, buon lavoro, mai come questa volta ci sembra il caso di dirglielo, buon Natale e buon lavoro all'assessore Paolo Giacomelli del Comune di Napoli. La pagina economica adesso: la Cina è pronta a sostenere le misure che l'Unione Europea e il Fondo Monetario hanno elaborato per assicurare la stabilità finanziaria in Europa. Il commento di Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. L'aiuto offerto all'Europa da parte della Cina è una cosa naturale. La Cina vede l'Europa e spera che l'Europa possa costituire un terzo polo di equilibrio strategico geopolitico. I conflitti con la Cina sono minimi, non ci sono rivendicazioni sul Pacifico, non ci sono storie della guerra di Corea. Diciamo che la simbiosi Europa-Cina è un po' come il whisky e soda, bisogna decidere cos'è il whisky e chi è la soda. Ovviamente loro vogliono un'Europa unita, un'Europa forte, non vogliono la disgregazione dell'Europa e sono disposti a giocare parte delle loro riserve per sostenere l'euro. Un'Europa politicamente forte, che parta da un'Europa economicamente forte, è un punto di equilibrio essenziale per gli equilibri del mondo. Non ambiscono i cinesi ad assumersi l'onere e le responsabilità di un G2 solo con l'America. E in Italia intanto prosegue il nostro viaggio tra le aziende che hanno rialzato la testa dopo la crisi. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2009 abbiamo avuto una perdita considerevole, quasi tra il 7% e l'8%. Nel 2010 possiamo dire di aver recuperato un 10%. Beatrice Lucarella è la titolare di Sam SRL, azienda di Martina Franca, provincia di Taranto, che produce olio, vino e soprattutto cosmetici a base di olio extravergine d'oliva. Il 60% è dato dall'export. Ecco la ricetta per uscire dalla crisi da Beatrice Lucarella. Noi dal canto nostro, come strategie di marketing, abbiamo puntato tantissimo sul Made in Italy. È comunque il 100% italiano garantito chiaramente da certificazione, all'estero diventa sempre una garanzia di qualità e di acquisto. In secondo luogo noi abbiamo puntato molto sul packaging, quindi abbiamo fatto un po' il restyling delle etichette, restyling delle confezioni. Faccio semplicemente un esempio: negli Stati Uniti una bottiglia, se il costo è di un dollaro, con la confezione particolare il costo è diventato di 20 dollari, quindi abbiamo cominciato anche a puntare su quello che è il senso del bello, del senso estetico e di presentazione del prodotto. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche la Commissione Europea è preoccupata per il caos voli in Europa in relazione al maltempo. Sentiamo qual è la situazione. È migliorata stamattina la situazione negli aeroporti dell'Europa settentrionale, da giorni paralizzati dall'ondata di maltempo. Rimangono tuttavia disagi nello scalo di Bruxelles, dove i voli per Inghilterra e Germania subiscono ritardi e cancellazioni. Anche Heathrow a Londra lavora a regime ridotto e a farne le spese stavolta sono anche i voli intercontinentali. Più grave è la situazione a Francoforte, dove l'aeroporto è aperto solo dalle 9 e i voli cancellati tra arrivi e partenze sono più di 300. A Parigi, a Charles de Gaulle e Orly si sta cercando di smaltire i passeggeri in transito bloccati da ieri. Per avere un aggiornamento sul maltempo sentiamo Andrea Giuliacci di Epson Meteo. Certamente, mentre in Italia nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire, insomma avremo temperature un po' più alte, potremo godere di un clima più gradevole rispetto agli ultimi giorni, nelle regioni più settentrionali del continente in realtà continuerà a fare piuttosto freddo, anzi decisamente freddo. Michele Albini, GR24, il sole 24 ore. Ed è tutto per questa edizione, grazie regia a Paolo Corleone, vi lasciamo all'Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.